America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, copertina natalizia, non può essere altrimenti, questa è la settimana del Natale e la copertina non posso che dedicarla al Natale in America, al Natale a New York, a quello che succede sulla Quinta Strada, alle piste di pattinaggio a Central Park, ai grandi cori che si ascoltano per strada e alle mille storie che si vedono ogni giorno proprio per strada, perché il Natale qui si vede per strada a New York. Ecco, questo è uno spot della Coca-Cola e però devo confessarvi una piccola debolezza. C'era questo enorme camion della Coca-Cola sulla Sesta Avenue con delle poltrone, con degli alberi, con dei piccoli alberi di Natale e con questo Babbo Natale, con questa barba splendida, tutto vestito di rosso, che faceva delle foto con tutti i passanti. E dunque una foto l'ho fatta anch'io, anzi, se andate su internet, sul nostro sito, potete vederla, perché in questa foto c'è anche Giuno, la nostra mascotte dell'ufficio, un mix fra un pastore e un levriero. Ecco, anche in questo si vede questa atmosfera natalizia che cerca di coinvolgere un po' tutti nello spirito del Natale. Ecco, il Natale qui a New York è partito lo scorso 2 dicembre quando è stato acceso in diretta nazionale l'albero di Natale del Rockefeller Center. Sarà acceso fino al 6 gennaio e pensate, è il soggetto natalizio più fotografato a New York. Quest'anno è un abete rosso che è arrivato dalle foreste dell'Upstate New York, quindi a nord di New York, alto 24 metri, illuminato da 45.000 lampadine che sono attaccate a 8 chilometri di filo elettrico e la media dei visitatori, infatti il traffico tra la Quinta Strada, la Sesta Avenue e la 50 e la 51 è un traffico infernale. Perché? Perché ci sono 750.000 persone al giorno che lo vanno a visitare. È un albero storico, il primo fu allestito nel 1931, eravamo in piena depressione, lo allestirono i lavoratori impegnati nella costruzione degli edifici appunto che formano il Rockefeller Center. La cerimonia ufficiale poi fu dal 33 e siamo arrivati quest'anno appunto all'83esima edizione. Poi c'è Radio City Hall, il grande spettacolo delle maggiorette, ma è uno spettacolo a tutto tondo, merita anche quello. Se per caso siete a New York con famiglia, con figli, cercate di prendere un biglietto, sono ormai credo tutti venduti, ma è un bellissimo spettacolo di varietà. C'è lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, un altro splendido spettacolo, un balletto meraviglioso al Lincoln Center, e ci sono mille altre curiosità, fra queste beh, una che arriva dall'Italia. Monsignor Ricci, thank you for all watching. Chi parla è Eugenio Magnani, che è il nostro rappresentante per l'ente del turismo, cerca di promuovere, e il lavoro non è facile perché abbiamo la concorrenza di tutti, di promuovere il turismo degli americani in Italia. Ecco, qual è l'occasione? È che Magnani ha presentato un presepe, il presepe di Artese a St. Patrick Church, dunque un presepe italiano che ha conquistato New York, perché c'era l'arcivescovo cardinale Timothy Dolan. Per questo meraviglioso presepe ideato e creato da Francesco Artese di Grassano in provincia di Matera, ecco, ascoltatori della Basilicata, beh, insomma siete sbarcati nel cuore del Natale di New York a St. Patrick Cathedral. E questo presepio poi voi lo sapete meglio di chiunque altro, soprattutto i miei ascoltatori della Basilicata, è stato a Washington, New York, Roma, Monaco, Varsavia, insomma è stato un po' dappertutto nel mondo. Ma Natale significa anche mangiare, ingurgitare tacchino in America, e c'è stato un signore che si è preso la briga di cercare di calcolare quante calorie andranno ad ingurgitare gli americani durante il giorno di Natale. Le ha calcolate 3.300, subito a ruota seguono inglesi, irlandesi. Devo dire che però il tacchino con lo stuffing e con tutti i corredi, la bread sauce e così via, è squisito. E mentre invece noi italiani siamo al 12° posto, consumeremo soltanto 2.721 calorie a testa. Dunque danze, balli, feste, grandi mangiate, grande aspirazione soprattutto quest'anno per la ricerca di un po' di tranquillità. L'anno è stato difficile sotto molti punti di vista, gli americani temono sempre un possibile attacco del terrorismo. Beh, speriamo che lo spirito del Natale, almeno in questi giorni, prevalga sulle preoccupazioni.